distruggersi arsilla. Angelica lo brama e me lo spera. Cada il mondo se duopo e cada orlando ancor. Ma Ersilla pera.